Letture di Radio 24. Dai pacchetti vacanze agli spettacoli, il marketing fa ormai sempre più ricorso alla vendita di emozioni. Al tempo della crisi, il mercato promette di farci venire la pelle d'oca e mette in vendita le emozioni, che diventano il valore aggiunto del prodotto nudo e crudo. L'eccipiente del desiderio, la merce civetta che dovrebbe dare la scossa alla nostra voglia di consumi. È un'offerta imponente, che non risparmia niente e nessuno. Si va dalle guide emozionali per turisti in cerca di buone vibrazioni alle emozioni golose proposte da chef di ogni ordine e grado, fino alle docce altrettanto emozionali delle spa che assicurano di farci naufragare in un mare di sensazioni. E ci provano anche le istituzioni. Levateci tutto, ma non le emozioni, è l'ultimo slogan del Teatro Stabile di Genova, mentre la provincia di Ferrara ne fa addirittura delle tipicità di territorio, certificate con tanto di marchio ETG, emozioni tipiche garantite. Si chiama marketing esperienziale, ma forse è più semplicemente l'anima eterna del commercio, che oggi indossa platealmente la maschera del pathos, la più adatta a questi tempi di spettacolarizzazione dei sentimenti e di recita dell'intimità, dove tutto è sopra le righe e niente è coperto dal velo del pudore. Ecco perché una volta l'emozione era il non detto del marketing, mentre oggi diventa essa stessa un prodotto. Un succedaneo di quegli autentici moti dell'animo e dei sensi che non si comprano e non si vendono, ma si vivono e basta, senza aspettare i saldi. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Marino Niola, Chi vende merci e viaggi chiamandoli emozioni, dal venerdì di Repubblica del 6 gennaio. Ricercatori della St. Andrews University, in Scozia, sono riusciti a estrarre per la prima volta alcune particelle dal centro della fiamma di una candela e hanno scoperto che vi si creano 1,5 milioni di nanodiamanti al secondo, che però fondono pochi istanti dopo la loro nascita. Il leader della ricerca, Wusong Zhu, pensa che se in futuro si riuscirà a estrarre in maniera efficace tali particelle, potrebbero essere sviluppate nuove tecniche per la produzione di diamanti artificiali. Il team di Zhu è riuscito a dimostrare l'esistenza nelle fiamme, oltre che del diamante, anche delle altre forme del carbonio. Finora si sapeva solo che le fiamme contenevano molecole di idrocarburi, che si trasformano in anidride carbonica. Ora sono stati visti anche grafite e carbonio amorfo. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Luce di lusso dal numero 73, gennaio 2012, del mensile Geo.